agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, si inizia. Vai, no. Un macello, Speriamo che si risvegli almeno. È difficile, molto difficile. Te l'ho detto, solo un miracolo potrebbe far sì che ritornasse se stessa. Purtroppo già, neanche una Madonna sola era, cioè non c'era mai nessuno a casa, altrimenti tutto questo non era neanche successo. Beh, senza un bradino di Dio, specialmente se è successo di sera tardi, no? Perché sì, andava la donna di servizio, andava 3 volte alla settimana, e avevano anche un bel rapporto, con la donna che andava erano proprio un rapporto d'amicizia che avevano, se non erano diventati amiche, parlavano di loro, eccetera, eccetera, si facevano anche compagnia, e lui ha detto che molte volte ci andava, lo stesso anche se non doveva andare a fare la pulizia, a farle compagnia, perché gli faceva un po' di compassione là nella sua. Ragazzi, c'è solitudine. Purtroppo sono cose che succedono, sono che miseria. E spero che la canzone è brava, ai mari non esiste di mai. Mi avvio, Anima mara non li vuole di realissimo. Sì. E purtroppo lei non è che sia buona. Marito è morto, quindi non è che. E dopo che si è sposata con il marito non ha voluto più saperne di nessuno. Ha detto che lì l'uomo uno ne aveva nella vita e uno ne rimaneva sempre quella. Un po' un pochino una disavventura, purtroppo. Succedono quelle cose. A volte rimangono così, molti addirittura sì, hanno un altro uomo, le fanno un'altra famiglia, dai. Ma dipende se uno si fissa con quella persona e non vede altre persone che sono che quella. Lei ha detto, mio marito è stato uno e uno deve rimanere. Boh, basta, non mi voglio più sapere. Già lo so, è una scelta che si fa, purtroppo, sono cose così. Sono cose così, sì, sono cose un po' sfortunate, che capitano tutte a una, però. Molte volte, anche io adesso c'è qualche cosa, secondo me dovrebbe essere una donna sola, infatti, no, non tanto. Ma tante volte tu desideri una cosa e non si realizza, magari tu hai una donna che pensi ti ama la vita e poi magari gira di capo, già lo sai come succedono le cose. Ci vuole una donna seria, che pensa alla famiglia e tutte le cose, no quelle così che si muovono di corra, succedono calzini, no, così non si fa. Io avevo due amici, eravano amici sia lui che lei. Lei prima di conoscere a lui usciva con me, eravamo molto amici. Diciamo che c'era anche qualche tenere esempio dell'amicizia. Poi una volta siamo andati a un ballo insieme e si sono conosciuti con questo amico mio. E niente, si sono conosciuti, io avevo già un'altra ragazza e praticamente questi due si sono anche sposati, hanno avuto 2 bambini, una famiglia felice, una ragazza serissima, ha girato di colpo. a lui gli ha detto praticamente che doveva andare a trovare un'amica che era in Sicilia, se gli andava bene o se era contrario. Lui ha detto no, vai pure, non c'è problema, non c'è nessun problema, vai a trovarla, quanto ci sta? E una quindicina di giorni, penso. Vabbè, attento ai bambini, tanto dice sei in ferie, li accompagni tu a scuola. Lui, premetto che lavorava all'ospedale, era un impiegato della SL, là. Fatto sta che cosa succede? Che lui il giorno dopo che lì è partita li telefona anche per fare sapere dei bambini eccetera eccetera e non rispondeva nessuno al telefonino. Prova una volta, prova due volte, prova tre volte, niente. Allora praticamente telefona alla suocera e gli ha detto ma ascolta, me lo dai il numero di questa vita di coso che beh, te lo do io, perché lì è partita questa amica e non riesco a contattarla. E allora la madre della moglie gli ha dato il numero di questa amica sua che era in Sicilia. Lui telefona a questa amica e chiede della moglie. L'amica dice, ma tua moglie sinceramente parlando qua non c'è mai venuta, non l'ho mai, non ci siamo mai detto niente che doveva venire qua, niente. Come non è mai venuta? Allora comincia già a tremare, a stare in ansia, cosa? Comincia a fare il numero di telefonino della moglie, il numero di telefono, alla fine gli risponde. E gli ha detto, ascolta, dice io ti ho trovato un sacco di volte, ma dove sei che non c'è una amica tua? Dice, vabbè, ti ho raccontato una parte, devo dire la verità. In internet ho conosciuto un uomo, sto bene con lui, pensa ai bambini perché non torno più. Perché è maledetta che... pure quei internet, cavolo. Per quello, cioè, fate le brutte gli effetti, fa. Quello che non mi piace molto con le chat, con le cose su la mamma di famiglia si può fare di cagate, tanto lui si è preso l'esaurimento, si è abbigliato l'esaurimento, è stato mancato 3 mesi dal lavoro, gli hanno mandato una lettera a casa che se non rientrava avrebbero licenziato, insomma un po' di storie. Che l'ho trovato in piazza, un giorno gli ho detto, già, tutto quanto demoralizzato, con la testa bassa, ha detto già, però sai cosa faccio, d'ora in poi i fermi non li voglio più vedere, quando la giocata di andarmi andando da chi si battoni, almeno li pago e non mi danno nessun dispiacere né niente, mi fanno solo contento e basta. Perché dice io ho dato la vita per questa donna e poi guarda cosa mi ha fatto, mi ha lasciato con 3 bambini piccoli da accudire, da coso, non so più dove mettere le mani, guardi. Ma lavoro è rifarmato, per qualcuno però deve tenere i bambini. La mamma li ritiene la mamma di uno. Almeno. E guardate che si è ritornato al lavoro, per dargli da mangiare e tutto quanto. Beh, ma è uscito di capo, no? Non è più lo stesso, passeggia da solo, in piazza, sempre a testa bassa, lo vedi, come una persona dispiaciuta, arresa. Ma la cosa più importante, secondo me, sono i tuoi figli, e basta. Non vedevi, può andarsene anche a quel paese. Eppure io ti assicuro che era una ragazza d'oro, una ragazza veramente in gamba, perché io ci ho frequentato tanto tempo, tanto è vero che la conoscevo prima che la conoscesse lui, una ragazza molto in gamba, ci potevi parlare, ti capiva, molto affettuosa, perché ogni tanto ti abbracciava, ti baciava e cose, però non capisco che cosa l'abbia spinta, sono cose che noi non riusciamo a capire perché non l'abbiamo provato, ma magari è possibile che magari diano anche, diciamo che possano accadere, che possano accadere, magari uno che non le prova non riesce a capire, però nello stesso tempo ti possono accadere e diventi anche egoista nei confronti degli altri, perché non pensi più né figli né marito né nulla, e non pensi più. Chiaro, è certo. La cosa però non è più tornata ai nonni, questo, per carità. No, non c'è più tornato. Lei abita, sicuramente tu la conosci, abita dove c'è la licorina, la licorina latte dolce. Devo vedere chi è. Quando me lo dirai, di cosa la conosco o no. È buona, è una bella ragazza. Una ragazza molto carina. Molto molto carina. È molto molto guata però. Diciamo che sì. Capisci abitata. Grazie Dio. Sono delle cose spiacevole anche lasciare un uomo così in capo, con i due piedi a campare in bicicletta, tutto quanto. Sai cos'è? Anche quando sono piccolo, sono già un pochettino grandetti, un po' te la capri. Ma quando sono minori è terribile, terribile. Meno male che c'è la madre che ci pensa, però. Diciamo che la madre è già di una certa età, una volta noi siamo andati a trovarlo a Torino, a casa sua, e la madre ci aveva risposto in una maniera brutta, nel senso che aveva cercato di porre e lì ci ha detto deve essere con quella, deve essere che i genitori già avevano intuito qualcosa, capito? Abbandonamento di minori, ce l'arresto, eh. Sì, l'arresto. Non abbandonate, non lasciate mai. No, tu te la voglio levare. Stai abbandonando tre bambini piccoli. Non è così, no. Si deve decidere un tribunale o qualcosa del genere, una cosa del genere. Poi salve. L'istoria nana che di un'altra vita che frequenta con lui, però io quando era sposato non lo frequentavo, dico la verità, lo frequento adesso perché adesso i figli sono grandi e la moglie ha fatto la stessa cosa, l'ha trovata a casa piangendo con le valigie, ha detto ma cosa c'è, dice non me la sento preso di fare la mamma di fare la moglie, ha preso il piede e si è andato, gli ha lasciato due bambini, uno in fascia e l'altro di due anni, non l'hanno imbattuta. Se non ci fosse stata la famiglia sua ad aiutarlo sarebbe partito. Se non ti fanno niente, tu la porti in tribunale, non ti fanno niente, stai abbandonando due bambini, io non so. O gli hanno affidato i bambini a lui, gli hanno affidati a lui i bambini, ma li aveva già affidati lì perché gli ha detto che non le voleva più sapere, non si era sentito di fare più la mamma né nemmeno la moglie, che voleva fare una bella donna libera. Però a me, guarda, non lo voglio dire qua. Ma Luigi Abidona, poi lo conoscete a questa casa Luigi Abidona, si mette a scherzare in modo, diciamo, non pesante, però, sai, quando tu scherzi con una persona che è confidenza, che è molta confidenza e ti conosci da tanto, sai, è una cosa diversa, ci scherzi in modo già più pesante. Lei, anche se ti conosce da poco, ci scherza così, capito? Di quelli che perché prende, ti abbraccia, ti fa, senza conoscerti da molto, capito? Comunque saluto a Gianni e saluto a Antonio, mi sentite, sta ascoltando poco fa, lei non vuole parlare che sono successe cose brutte là in casa. Tu tumore ce l'hai, fanno per... Sì, avevo aperto poi anni fa, era andato tutto bene, a testa, 12 ore, 14 ore di intervento sul continente, e invece l'ha presa da un'altra parte ora. Non ce l'ha fatta, io sono un attimo a in diretta a trovarla all'ospedale, ha detto che non si sentiva bene, che, perché andava a fare i cicli, no? I cicli del corso, della cura. E dice che non so se stamattina presto, vuole essere alzata per andare in bagno, cioè respirava fatica, capito? Ha avuto mancante, caduta in l'ha trovata morta, andando in bagno. Quella è la fine che ha fatto anche mia madre, così. Appaga, adesso purtroppo se la vi, mi dispiace perché la conoscevo anche bene, ed era anche una bella donna, non lo so, sì, di Cristina, caspita se era una bella donna, è brutto, 54 anni adesso. Infatti più o meno è valetta mia, io quando mi sono preso la patente io nella Formula 1, sì. Avrà avuto 19 anni e lei già stava facendo l'istruttrice, perché lei è entrata prima come si dice, come allieva. Ehi capo, no vabbè, se tu avevi 18, lei ne aveva almeno 22, 23. Infatti, sì, io ne ho 50. Fatti il conto, 18, 22, 23. E voglia che la conosci, mi dispiace, e quando gli altri sono che ti dica, mi dispiace quello che è successo, purtroppo lo dopo ripiglia sempre. Capo, sua nonna che ha avuto mille problemi da giovane, separata da marito, con tre figli da crescere, da sola. Lo so, purtroppo. Quelle cose non guardano in faccia nessuno, né ricchi né poveri, né belli né poveri. Tanto danno di venire, io. Non so che sono solo parole, e che quando hai qualcuno a cui tieni che ha avuto queste cose qua, è una cosa tutta diversa, però purtroppo è così. Purtroppo queste cose qui non guardano in faccia nessuno. Si ha fatto anche salti mortali per non farmi scadere i documenti, per farmi prendere la patente 10 anni fa. Si è sposta lì, ha chiamato un'altra scuola guida per farmi dare l'esame di guida, perché sennò dovevo aspettare dopo le feste, capito? Mi scadevano i documenti, dovevo rifarmi i documenti e tutto. Si è stata disponibile, un bel gamba, Cristina, e volevano avermi i genitori che sanno che mi ha molto le loro, io me la voglio ricordare bella la viva, no, la morta. E non ci vai, se va. Oh no, funerale vado. Vabbè, lo so. Purtroppo è così. Purtroppo. Anche mia moglie la conosce, la moglie. Da Cristina Santona. Paga la conosce. Sì. Sarebbe la sorella di sua madre. No, è la cugina in primo grado di mia madre. A poche parole, quando usciva con la figlia, quando era più giovane, quando usciva con la figlia, ha avuto una bambina, Patrizia, la più grande, l'ha avuta che aveva 16 anni. Quando uscivano assieme, tutti quanti erano pronti a scommettere che erano sorelle, non madre e figlia. Io i figli non li conosco, la verità. Io, proprio quando stava con quella persona là, la conoscevo. Mi vedevo che uscivano insieme, cosa? Le trovavo anche, e poi avevano avuto un figlio insieme. Ho salvato. No, no, figli, hanno convissuto così, erano fidanzati, ma non hanno avuto figlio. Allora, Patrizia ora c'ha la figlia grande, c'ha 38 anni. Ma cos'è? No. Sì, perché si fa 54. Quindi sono 38 anni, c'ha la figlia grande. Paga. Poi c'è tu e Michelino. Aspetta, un bel risveglio stamattina. Ho svegliato proprio una bella notizia. E quindi queste ragazze sono sole praticamente, il padre non ce l'ha. No, negativo, da bambini, il padre non l'ha mai avuto. Da quando sono piccoli, cosa. No, ma sono grandi, capito? Cioè, sono indipendenti, non è che dipendono dalla madre, hanno famiglia. Uno e due, insomma, che non è sposato, che non c'ha famiglia. Vabbè. Siamo appesi a un filo. domani si era risposata, capito? Si era risposata e stava bene con quest'uomo, una bella persona, in gamba, davvero, Tommaso. E nulla, niente, e vabbè. Ah, si era risposata, capito? Non lo sapeva questo. Vabbè, comunque già la conoscevo. Non dico che avessi confidenza, però la conoscevo, ci parlavamo e cosa, quando eravamo a scuola guida e cosa, però ci faceva fare gli esami preparatori prima del preesame, tutte queste cose qua, facevamo. Lei soprattutto faceva guida, però qualche volta ci aiutava quando facevamo i compiti e cose, solo per prepararsi all'esame. Facciamo tutte le patenti, tutte le patenti ci avevo. E non so, devi averle tutte per fare l'istruttore, devi averle tutte. Tengo un attimo, già devo entrare un attimo in bagno. All right. quando sta affondando. Capito, magari c'è la paura che non parte. Sì, ma non come ancora ne va a lasciarli a fare i chiacchieri se sta la macchina in bocca. Vabbè, una volta mi ha fregato la pietra e plantamona, cagano stand e cosa, ho alzato il cofano di dietro della macchina per ascoltare la musica a tutto volume, e stavo facendo il filmato mentre arrostivavo con la musica, con il sottofondo musicale, tutto grande. Dopo la sera mi ha basti non partire più la macchina, era già quasi buio. Come fare, come non fare, meno male. Era un po' in discesa e cose, l'abbiamo anche mostrato per fare da subito, ma se no guarda. Era un casino, Succede, perché soprattutto se c'è l'amplificatore nello stereo, quando il zoom eccetera eccetera, va in assorbimento, va e quindi poi ti crea quel problema lì. Non sempre l'ho avuto altro l'amplificatore, sempre tutte le macchine, quindi c'era come se c'era. Nella 500 invece che l'amplificatore ci avevo l'equalizzatore. Più che consuma sono quegli amplificatori, perché assorbono, poi se ne buttano la batteria. Sì, ma l'equalizzatore era un amplificatorino, era un amplificatore con distorsori, era un amplificatore finale, dai, diciamo. E andavamo bene con quello lo stesso, quindi potevi anche regolare i bassi, è come se avessi un mixer in macchina, la stessa cosa. Già consumano, già assorbe. E assorbono, è quello che c'è, e assorbono un bel. Ciao Lucrezia! Sì, deve cambiare, no?